verso il voto. Un saluto agli ascoltatori e benvenuti al Punto Politico. Il futuro di Alitalia irrompe di fatto nella campagna elettorale. La trattativa governo Air France è bocciata categoricamente dal Popolo della Libertà. È una trattativa irricevibile, dice Silvio Berlusconi, che giudica dilettantesca la gestione da parte di Palazzo Chigi di tutta la vicenda. La sinistra svende Alitalia a un quinto del suo valore di mercato, dice l'ex premier, e sta cercando di chiudere Malpensa, il porto dell'Italia sul mondo. Da qui il suo appello agli imprenditori italiani, così Berlusconi al TG5. Se esistono ancora in Italia degli imprenditori con un minimo di orgoglio nazionale, si debbano fare avanti, mettere a punto un'offerta, mettere a punto un piano industriale per sottrarre la nostra compagnia di bandiera a una fine, a un esito così inglorioso, non tanto per la compagnia di bandiera, ma quanto per tutto il sistema paese. Ricordando che c'è anche in gioco l'aeroporto della Malpensa. Il Nord risponderà all'appello di Berlusconi, commenta dalla Lega Calderoli, mentre Maroni aggiunge: a me pare una pura follia nei contenuti. Bisogna negoziare e cambiare radicalmente il testo, se no non si può accettare una cosa del genere che condanna Malpensa praticamente alla chiusura. Si potevano seguire altre strade, non solo quella di Air France, commenta Gasparri. Ci sono state grandi banche italiane che si sono affiancate ad operatori, ci potevano essere altre ipotesi. C'è stata una direzione di marcia unica imboccata dal governo e mi pare che siamo arrivati poi alla fine in una strettoia, in una situazione che ci porta di fronte a rischi gravissimi per il paese e per l'occupazione. Emergenza rifiuti e recupero del potere d'acquisto dei salari, le altre priorità del Popolo della Libertà. Il primo impegno del prossimo governo, annuncia Berlusconi, sarà liberare Napoli e tutta la regione dalla montagna di rifiuti sotto la quale la classe dirigente del Partito Democratico li ha sepolti. Gli italiani con Prodi si sono impoveriti, aggiunge Fini, per il quale è necessario intervenire sui redditi dei dipendenti. Il fronte ora Partito Democratico. Di Alitalia parla anche Veltroni, che torna tra l'altro sui costi della politica. Andrea Viali. Oltre a tagliare gli stipendi dei parlamentari, occorre anche dimezzare il loro numero e diminuire i finanziamenti ai giornali di partito. Walter Veltroni rilancia la sua proposta per ridurre i costi della politica. Su questioni importanti come pensioni, all'Italia e politica estera, il centrodestra è sempre più diviso, attacca poi il candidato premier del Partito Democratico. Sono stati divisi sulle candidature, dove Alleanza Nazionale è stata presa a schiaffoni regolarmente perché gli hanno messo i candidati che volevano altri e gli hanno fatto diversi dispetti, ma d'altra parte ciascuno è vittima delle proprie macchinazioni. La verità è che se loro dovessero vincere si continuerebbe come prima, sarebbe una prosecuzione del quindicennio. Noi invece proponiamo di girare pagina. Veltroni, che con il suo tour elettorale in pullman ha fatto tappa a Pavia, Lodi e Piacenza, chiede anche di accertare eventuali responsabilità politiche dietro agli abusi compiuti nella caserma di Bolzaneto nei giorni del G8 di Genova. Penso che tutta l'Italia debba una grande riconoscenza a tutti gli agenti delle forze dell'ordine, ai carabinieri, a tutti coloro i quali nel corso di tutti questi anni hanno lavorato e si sono sacrificati per garantire la sicurezza del paese. E non ci deve essere mai nessuna intermittenza in questo giudizio. Sono loro il presidio della sicurezza di questo paese. Ma quello che è accaduto a Bolzaneto è intollerabile. Infine, la vicenda Alitalia. Per il leader del Partito Democratico bisogna garantire un futuro a Malpensa, ma anche tutelare i lavoratori della nostra compagnia di bandiera, trovando una soluzione che limiti il più possibile l'impatto sociale dei tagli previsti dal piano di Air France. Soluzioni e commenti per Alitalia arrivano anche da molte altre forze politiche. Per il socialista Boselli c'è solo il fallimento come alternativa al piano Air France. Sulla stessa linea Casini, Unione di Centro. Allora io chiedo a Berlusconi e a Veltroni di dire con chiarezza a tutti gli italiani: preferiscono Air France o vogliono il fallimento di Alitalia? Questa strada non ha alternative. L'accordata italiana, se c'era, si materializzava ieri, non domani, quando ormai c'è una procedura e le azioni Alitalia sono precipitate in borsa. Si chiuda con Air France, dice Santanchè della destra. Contro il piano della compagnia transalpina invece i Verdi. Il cambiamento della proposta di Air France è inaccettabile perché è palese il tentativo di svuotare Alitalia sul piano industriale sostituendo i suoi vettori con quelli della compagnia francese, sostiene Angelo Bonelli. Contrario anche il candidato premier della sinistra arcobaleno Fausto Bertinotti, che torna a bocciare l'ipotesi delle grandi intese tra Berlusconi e Veltroni. Io penso che invece questa idea del pareggio è un'idea assolutamente artificiale di chi vuole in qualche modo determinare le condizioni per poi proporre le grandi intese. Meglio saltare i sondaggi e dire che le grandi intese sarebbero una sciagura. Verso il voto termina qui, in studio, Vincenzo Miglietta.